cosa c'è a Montealbano? No, del ripetitore. Ripetitore di cosa? Del meteo. Dove è il ripetitore del meteo? C'è il tuo trasmettore digitale, è capitaneria, ma è punto. Ciao, vabbè, Nattalino. Ciao, tu, stavo salutando a Franco. Esci a vedere. Perché stavo staccando il PL. Va. Ça va, mica l'ho piattata quella cosa, amico. Ma cosa è varia? Come va? Bene. Marco, vieni Marco, Franco. Andiamo a vedere la distanza, l'avrei già provata allora. Franco. Già l'ho già provata. Sei quasi 9.40 qua. Diciamo che c'è fino alla riga ci arrivo. Qua è bella abbondante, quasi 9.50 Ce l'abbiamo a metà strada più o meno noi due. Franco, dimmi dove. Se c'è la possibilità di ascoltare ai 40 metri, vai a 7.055 e ti senti la propaganda russa in trasmissione diretta e manda radio amatoriale. Tutto a piena potenza, a me mi arriva 9.20 a casa. No, negativo, no, la frequenza non ce l'ho. Sento la Russia io su canali bassi, non mi ricordo se 26.0 qualcosa, 26.400, una cosa del genere. No, ma la cosa bella è che stanno utilizzando frequenza radioamatoriale, la frequenza di 40 metri, normalmente di lì in quelle bande da 7000 sino a 7030, 7060 ci sono i CW, poi a 7070, 74 c'è l'FT8, il modi digitale, a fondo scala, vabbè non fondo scala, non esageriamo, però arriva intorno ai 9.20 ed è un bel perché la Russia è lontano da noi e stanno mandando continuamente propaganda, non so cosa vogliono dire, infatti la stavo ascoltando e ho detto, e cos'è che cosa, ma staccano la portata ed era una propaganda di sulle bande radioamatoriali, stranissimo. Cosa volevo dire, adesso mi sono dimenticato, continua tu Natalì, stai arrivando anche tu a Pomoletta qua Natalì. Ciao Robè, buonasera. Carino, molto facile. Cioè, buonasera a tutti, così non mi dimentico di nessuno. Vabbè, dimmi qua. Domani mattina se hai disponibile un wattimetro per la 27, voglio vedere se è tarato bene la T250. La ce l'ho disponibile, però il problema è la taratura, non lo so se è affidabile quello. Aspetta, come si chiama quello che mi ha dato coso? Quello della Zetaggi con la laga incrociati. Sì, già va bene, ma se ce n'è anche uno di quelli ad ago normale. È giusto per me la taratura. Perché qua sul display del 140 c'ho 40 watt di portante, 80 modulati. È giusto. Sulla T250 c'ho 40 importante, 80 modulati, c'è giusto, sì, però lo voglio vedere con il wattimetro esterno se è giusto. Sì, adesso te lo metto da parte e te lo scelgo. C'ho lo strumento di precisione, però c'ho la sonda per i 2 metri. Il BIRD, quello ti spacca il decimo di watt, è precisissimo per l'apparecchio, però non ho la sonda per le bande, diciamo per la 27, fa solo i 2 metri, 144, però già ce l'ho un altro da darti, lo devo guardare adesso, dopo lo metto da parte e così ce l'ho domani, te lo do. Sì, è giusto per fare la prova, poi te lo rifaccio, perché io ce l'ho, però è lo stesso, anche ce l'ho per i 2 metri. Vabbè, dai, poi domani ci vediamo. Avanti a chi tocca. Io, se ti interessa, ho un HP201 che fa anche da wattmetro. HP201 è molto preciso, lo sai, ma l'aveva prestato a Massimiliano una volta ed era perfetto con la T250. Poi voglio fare la cooperazione col wattimetro esterno senza la T250, mettendo solo il 140 per vedere se corrisponde lo smith suo, che è abbastanza preciso. Voglio vedere se c'è differenza col wattimetro esterno, perché la T250, essendo diretto collegato col cavo al 140, è molto preciso. Voglio vedere se c'è differenza mettendo l'esterno, solo quella prova voglio fare, ma non credo. Comunque è una mia prova, così, una curiosità, dai. Sì, una curiosità, ma vedo che è abbastanza preciso, sta segnando bene. Comunque voglio fare questa prova, no, diamolo a Roberto, che ci vediamo tutti i giorni e mi viene meglio, capito? Ma se lo prendo, lo provo, poi l'indomani domani glielo ripasso, capito? Sono quello della Mosca, l'altro quello con l'antennina l'avevo dato, mi sembra, a Muros. Comunque già non c'è problema, me l'ho già messo da parte, domani passa di Rubini. Sì, io. E quindi faccio questa prova. Chi c'è anche Pirivella? Cuocomane. C'è Cuocomane, sei tu. Hai capito che forse anche il cavalletto e la pedivella della moto. Così impari a fare le curve e toccando la pedana. Ho perso tutto, porca miseria. Adesso mi chiamo, come si dice, come lo del freno. A te faccio schiattare un natalino. Cosa? Faccio schiattare un natalino. Ah, non ce la fai, faccialo. Una giugana a me. Ma cosa fai schiattare? Ma non lo vedi che c'è 5 va? Sì, lo vedo anche io, perché sei con lo stesso segnale su adesso. Se metti a 20 watt come Antonio, perché tu altro c'hai 20 watt in quella radio, non mi dire di no. No, sicuramente no. Perché l'ho messo al minimo. Ma questo non si altro, che cos'è? Ma chi è Antonio? Sento un... Non ventola, caldo c'ho qua. Non senti che ventilatore? Vabbè, uno di quelle ventole da coso. Quando fanno i film per far vedere il vento, con i ventilatori da circo. Comunque qua arriva di un peluzzino, però arriva più forte Antonio rispetto a Natalino. Sì, da te sì, ce l'hai più a vista ottica, Natalino è più chiuso, mentre per me è leggermente più aperto Natalino. È sempre, Antonio, attenzione, è sempre una questione di posizione, perché vedi, da Roberto prevali tu, mentre da me un pelino prevale Natalino. Cappa, comunque ti giuro che non la sto usando io la potenza, sono un bel giù di batte, anche perché me ne accorgo lo strumento. Questa radio tu mi butti dove vuoi, ma io non la uso mai a palla, cioè non la uso mai a così, no, la uso sempre bassa. Ehi, ma d'estate ricordatevi sempre queste radio, io adesso ce l'ho 20 watt, modulate 50, d'inverno io la uso anche a 40, 50 watt di portante, hai capito? Le fa anche bene tirarla un po', però d'estate non la tirate perché scalda e scalda un bel, e le ventole che ci sono troppo deboli per il calore che emana la radio, capite? Questa è un'esperienza che ho fatto io, quindi lasciatela così che va più che bene, tanto ci sentiamo tutti, ma cosa viene a frutti? Cappa, non la tiro mai io, perché sono sempre sufficienti, capito? Io ti faccio vedere che non la tiro io la radio, infatti è fredda, è tiepida, non è calda. Cioè non è altro io batte, capito? Perché non voglio grimballa, perché c'ho quel pensiero lì. Mi basta così. Si conferma, dai, facciamo girare, vai Roberto. Invece tra Natalino e coso e Antonio, datemi un rapporto così vediamo, cioè Antonio arriva un po' più forte a me, Natalino un peluzzino più basso, vediamo in ricezione come siete messi, e che rapporto mi dai Natalino tu? 9,20. E tu Antonio? No, è quasi 9,40. Porca paletta. Qui 9,30. Ma c'è Marco la differenza, perché sono più a vista ottica Antonio su Roberto, lo so perché io sul terrazzo di Roberto ci sono andato e più a vista ottica, capito, la zona di Cattacona Mariana, mentre Natalino rimane più indietro, capito? E adesso sto usando l'ICOM, così impari. No, ma io sono allibito per un'altra cosa, io vi ascoltavo con l'RFG normale, no? L'ho messo tutto a zero l'RFG. Allora, Antonio, fondo scala incollato, Roberto, fondo scala incollato, Natalino, fondo scala incollato, con l'RFG a zero mi, ma quanti watt state usando? Ah, io sto usando la potenza minima dell'ICOM, figurati, è attivo attivaggio. Poco fa addirittura col K stavo facendo con 5 watt. Io ti sparisco Marco? No, 3, Santiago 3. All'anima, cioè, ho questo referino e proprio se non attenua niente o siete dei mostri voi. Vai Robè. Ma guarda, io già mi conosco, Claudio, io non ne ho mai usato la potenza, massimo 10-15 watt con questo qua, mai, anche se potevo darne fuori molti di più. Non me ne ha fottuto nulla, lavora l'antenna, io ho una buona posizione dell'antenna e radio da lì. Anche nelle altre bande, tutti dicono che potenza c'hai, io ho detto la potenza delle 940, 80 watt, 80 100 watt con i picchi arriva, infatti non ci crede nessuno, dice ma che antenna, detto, un pezzo di filo è la potenza dell'apparato. Adesso ho il lineare quello grosso, come ha fatto prendere Claudio, non ho ancora collegato, ma sinceramente una volta che lavori bene le antenne, la potenza sì è importante, però se devi fare certe cose, se no mi ascoltano dove arrivo o vado, se no è utile che mi faccio sentire e poi non riesco a sentire loro. Ascolta, però beh, un pezzo di filo ce l'hai tu, capito? Quell'antenna è un'antenna seria, eh? Tu te la date, è una persona seria, quindi trattala bene. Ma è la terra è seria, chi se me la dà è un po' così. Non ci credevi, ti quando te l'ho detto, che io quando l'ho piazzata quell'antenna, mia, c'era Natalino, abbiamo attaccato la casa di quell'amico e allora, come l'ho piazzata ho iniziato a fare due show da tutte le parti, ma con segnali soprattutto in 40 metri, non tanto in 15, ma in 20 e 40 è una cosa allucinante questa antenna. Io non sto scherzando, no, per vantarmi, già lo sai, non sono tipo che mi piace vantarmi. Ci sono un paio di rianatori, questo di Pero, vicino a Torino, dice, appena le sente, sempre dice c'è un segnale da paura, mi dice sempre, cacchio Roberto, ti conosco dalla modulazione del segnale. Genova non ne parliamo, tutti quei paesi di lì, Genova, Torino, Roma, tutti a bomba, c'è questo poi ad Aosta, vabbè, lui c'ha probabilmente una bella postazione, questo Matthew si chiama, quello mi arriva a 9.30 e io arrivo da lui uguale. Sì, perché quell'antenna lavora praticamente come messa, lavora sia davanti che dietro, e poi le due punte, capito? È così, lavora così, e tu ce l'hai bassa, io figurati ce l'avevo a 40 metri d'altezza, era una cosa spettacolare, piazzata nella stessa posizione che l'hai piazzata tu, così, e c'ho la gemella di quella, te l'ho detto l'altro giorno, col cavo ancora più grosso, che chi l'ha fatta, e sappiamo chi l'ha fatta, non l'ha mai usata, l'ha fatta, la doveva montare e poi non l'ha mai montata, e l'ha data a me, capito, è uguale a quella, 15, 20, 40 metri, ma tu vedrai il cavo, gli occhielli, nuovi, cioè non è mai stata montata, il cavo è grosso quanto è un 213, perché la volevo usare appunto con la potenza che ha lui, e quindi l'ha fatta così, ma è spettacolare. Non lo immagino, dai. Poi quando usano certe potenze devono fare le cose ben fatte, dai. Allora, è rimasto Natalino, Antonio, Claudio, Marco, che mi sto dimenticando, Franco, c'è ancora, scusate. Sì, sento un po' di alternata, roba da te. Alternata? Eia. Sano, cosa c'ho vicino? Qua tutto muto, non che non sia il televisore, perché ci ho acceso il coso. Ancora si sente? Sì, è il monitor, Roberto. Sono vicino al monitor, ancora si sente? Io la sento. Sì, ma non dà fastidio a tutti i bini, lascialo stare. No, fastidio no, era solo una precisazione. È strano, pure attacca, non me ne sono mai accorto. Sono col monitor acceso e il coso, la Meritron pure c'ho acceso, perché c'ho il cluster tutto acceso, il coso di stazione. No, è quello lì lo facevo anche a me, quando c'è il PC acceso così è quello, non ti preoccupare, non succede niente, lascialo stare. Vai Anto. Beh, non fa niente, già non succede niente, già va bene. Quelli di Emma non li fa di nulla, grappa. Comunque ognuno c'è la sua posizione, la meno brava, io magari vado un po' meno forte da scappa di calo e mi arriva più basso. È impensabile che sia 9.20 qua, a meno che non attacca, allora sì. Invece da Natalino arriva molto più forte, è la posizione quella che conta. Sì, ma infatti io ne faccio sempre, quando noi parliamo di queste cose, parliamo sempre di posizione, perché è impensabile che tra di voi, in un cerchio di 200 metri, chiedete i controlli, non serve a niente. Io sono distante, li chiedete a me, io vi dico tu arrivi così, tu arrivi così, tu arrivi così, perché non fa, capito? È come che io da Carbonazzi chiedevo il controllo a Roberto che era 9 più 60, Roberto mi arrivava 9 più 60, Antonello lo stesso, non serve a niente, capito? Mentre io essendo lontano vi posso far vedere esattamente le differenze. Comunque fra Evito ne ho fatto resuscitare due, eh? Senti la modulazione di Antonio Bombolo, senti la modulazione di Natalino Alfa 1 noto Cuoco, ma ne senti le modulazioni? Questi due signori li ho fatti resuscitare io. Oh, bellissimo, fanne resuscitare un altro da Fangala. Vabbè, quando viene, poi ce la teniamo a mangiarci la pizza, ti porti via una di queste radio e così risusciti anche tu. Va bene, dai. È un cambasciatomi, se no fa zombe, pompa molto di più. E anche quello di Natalino spinge forte. Guarda, voi avete due radio che, non perché ve le ho fatte avere io, ma perché sono veramente eccezionali. Una più bella dell'altra come presenza, ma soprattutto come funzionamento. Funzionano molto, molto bene. E anche Antonello arriva molto bene con le 140, esce molto, molto bene. Anche perché sono radio testate da me, ce le ho avute io, erano le mie, quindi le ho conosciute, nel senso che... le ho conosciute perché ce le ho avute io, ce l'ho ancora, 430 ce l'ho io, 440 l'ho avuto, quindi so che sono radio spettacolari, tutto qua. Vabbè, comunque, questo invece io chiamo baracchino sintonia continua, che però dà veramente delle ottime soddisfazioni, 140, veramente. Soprattutto questo non mi ricordavo che era così, talmente messo bene quando gli ero dato a Cosio, a Valerio, che non mi ricordavo neanche che esistesse. Vabbè, ok, avanti. Propagazione, c'è me. Questo è per mandare a Ferrari, però. No, 9:10 sta arrivando da me. Anche qua più o meno 9:05, 9:10. Tengo un gatto, un coso, un casino. E in USB sono. Perché non provate a chiamare? No, in USB, vediamo. È tedesco, ve lo dico già. Non me l'ha funzionata, parlate voi. Ah, che si vuote fornugiare. Magna cazzo, fammi, tanto. Allora, cos'è secondo me? Non è magna cazzo, fa. Vabbè, la cazzofa te la mangiamo noi. Abbassate, noi ti mangiamo le cazzofa. E appunto, vedi, magna cazzofa io dico. Ma la cazzofa te la mangiamo noi, hai delle mani battate. Hai delle mani drogo. Le spina. Cos'è detto qua? Te le diamo il tronco con la spina. E io. Lunga. Sono avanti poco fa, 5:25 clame. Oh, no, no, siamo usciti al telefono. Siamo usciti al telefono nel pomeriggio con Walter. No, gli ho detto, non ho voglia di stare in 2 metri, ora nel 9:21. Non mi interessa per il momento, dai. Sono un po' stancato. Mi faccio delle chiacchiere qua e basta. Oh, lo conosco, non sai quanta gente, quanti lavoratori che sto sentendo. Io conosco a Walter, il Severo, India, come si chiama? No, come si chiama? Sera Whisky Whisky, ma non so quanti ne ho trovato, manda i saluti. Quell'altro di Abbasanta che sono andato 2 settimane fa, salutami a Walter, ne ho trovato un sacco di gente, sentite, tutti conoscono a Walter di Sassari. È il mio padrino internazionale, cosa ben ci sia. È internazionale lui è internazionale. Conoscono tutti, sì. Già si fa sentire, conoscono anche l'impianto suo, c'era questo qua, c'ha due belle antenne, bei gaetani, un paio di gaetani c'ha. Sì, una tre di gaetani, forse 4, buh. Sì, cioè, mi pare che ne ha 6 adesso, e un altro se ne deve prendere, mi stava dicendo. Quello a 6 kW è già arrivato l'armadio. Già non le manca la potenza. Dice c'è un amico suo che ne ha 22 kW, vabbè, una stazione da paura. Ma non c'hanno niente a che fare con quello che ci avvate, lascia aperto. Lì già sei venuto, è tutto un casino perché sono tutte sparse, ma se lì metti, fai una base intera e metti tutte le radio, lì ci sono 500.000 euro. Sì, io lo so, ce n'è la lampadura, chi c'è andato a vederlo di voi? Natalia, tu ci sei andato? Aspetta, registrando un messaggio a me. tappa. Dei presenti che ci hanno dato, io, Claudio, qualche donato, Antonio, Luca, chi ci hanno dato? No, ci sono mai andati loro, lascia aperto. Sto dicendo che dicevo radio costose, ma soprattutto se tu fai un sistema fatto bene, metti le cose fatte bene, c'è una sera radio la paura, che lui è tutto incasinato, tutto buttato in terra, sono una bella cosa veramente, ma non bella, bellissima da vedere. Ma io ho visto che lui c'ha anche spazio, ma avrei fatto una sala radio, diciamo, per utilizzo, dove ti metti le radio che utilizzi e poi una sala museo divisa HF e baracchini, cioè tutto separato, bello ordinato negli scaffali e con la sua targhetta magari per dire, annotato per dire in un libro, quella è una Fayette, non so che cosa, posizione numero 5, e sai dove e lo trovi, fatta una cosa tipo museo. E le radio, quelle che deve utilizzare, che ha delle bellissime radio di ultimissima generazione, un bel ripiano grande ad U, fatto bene con tutte le cose, e lui c'ha radio di tutti i valori. Ma non sa vivere lui nell'ordine, cosa massimo quante volte abbiamo messo a posto, non sa vivere nell'ordine, lui vive così, perché non ce l'ha solo Lino, ce n'è anche in bagno, capito? Ce n'è in bagno, lo sgabuzzino, da tutte le parti, capito? Nella dipendenza dove facciamo gli spuntini, anche lì sono radio, da tutte le parti è pieno di radio, tutte le parti, in camera da letto, in cucina, nel salone, da tutte le parti. E ho visto poi quell'altro pezzettino nuovo che è un po' più ordinato sopra al primo piano, al secondo piano, adesso non mi ricordo se era al primo o secondo piano, che ci sono radio un po' più ordinate, non è a molte, però è tutto ordinato, di lì è carino. Poi ce l'ha nella sala dove si fa gli spuntini, già l'ho visto, poi va il bunker e poi ci avrà i punti, io i punti non sono mai andato, tu ci sei andato? Ah, i punti è nato lui, lì c'è una mansarda che è tutta piena lo stesso, tutta piena di radio. Quella l'ho vista anch'io, ma tanti anni fa, È pieno, Robè, è pieno, capito? È pieno, non siamo anche qui dove metterle. Si apre il cofano della macchina, neanche apre il cofano della macchina. Ma l'hai visto il cazzo del Terracan? Tutto completo, amplificatore, HF, VHF, UHF, tutti gli stili delle, tutto. E lui è così, non c'entra affatto. È così, e lui deve avere tutto a disposizione, tutto di più, capito? Però non riesce a vivere nell'ordine, assolutamente. A lui le piace così. Quando invece è salito tu al proprio piano, lui non ci ha mai abitato lì. È finita, relata, tutto fatto, e ancora non ci ha abitato. Però ci sono le radio già. Infatti me l'ha detto questo che la sto predisponendo. Ha fatto dire poi, spero che ci stia ascoltando, perché non stiamo offendendo nessuno, stiamo raccontando la verità senza naturalmente offesa. Quella sala dove, quella specie di dependance, dove dice fa gli spuntini, dove vengono i suoceri, anche di lì c'è le radio. È per tutte le bande, no? Solo le VHF. Lo sto dicendo, anche in bagno sono le VHF, le VHF e le HF. Capito? In cucina, VHF, che da tutte le parti, lo so, lui dorme, è comodino, deve avere la radio accesa, se no non dorme. In macchina c'ha le HF, è raro trovare uno che abbia le HF. Che c'abbia le HF c'è anche l'altro, senza fare nome. Loro due soprattutto che hanno un danno, come un pianto di Ospreay. Capito? Come ci sono? 10-10, stranamente, vabbè, io già faccio un po' tardi la sera, mi trattengo nelle altre bande, però sono per essere 27, oggi stiamo facendo tardino tutti, dai. Fatti, mi sa che vi saluto. Vai tu, fra, che devi piacere alle 5, se no non mi pagano questa maestra. A me ragazzi, ti paga. Sono a Rocco sul locale, dai. Che ci è rimasto? Avevo scritto qualche nome, però ci ritrovo. Che ci è rimasto? Vabbè, Claudio, Roberto, Natalino, Marco e Antonio, dai. Un abbraccio a tutti. Riprendi Claudio, saluta in casa. Grazie, farò un abbraccio anche a voi, l'ho fatto Ilaria, Diana e mia, dai, ci sentiamo. Non so, sto pensando ormai il 27, perciò vai a lavorare, se no poi non mi pagano mai domani. Ciao, un abbraccio, fra, vai, non mi fai girare. Ciao, Franco, mi hai sentito, dai, chi tocca, chi c'è, Marco e Antonio? Cavolo, hola, Marco, c'è una sicca, cazzo, mamma mia, girare il guglione. Stavo dicendo, cavolo, proprio tante radio, e cosa devi fare questi canti in radio? Cioè, posso capire, procura anche a venderla, boh, tante radio a venderla. Ma ne ha un mare, lascia perdere la parte quelle d'epoca, quelle vintage che lui è un collezionista da tanti anni. Ma di VHF ne ha di tutte le maniere, capi? Di tutte le marche, di tutti i tipi, di tutti i modelli. Certo, cioè, oggi mo va a vedere. Ah, cambiamo discorso, no? Non sono manco discorsi da fare. È così, le piace averle e basta. Magari manco le usa, capito? Ma non c'era una volta, c'era anche più di una volta a certe radio. Ne ha doppie, triple, ma stai scherzando. Quella che gli ho dato io ne ha quattro. Scappa, ma chi c'è sotto? Io sento qualcuno che sta mettendo portante. Avanti, chi è? Propagazione. No, no, non è propagazione, questo era qua vicino. 9 più 20 qua. Ehi, ma a me nulla mi fa. No, no, no, nessuno, vai, pensavo volesse entrare. E cosa, comunque, Antonio è andato via Marmi, ma come si chiama? E Franco ha salutato a tutti, forse ti sei allontanato perché te l'hai rilanciato. C'era anche Natalino che era in parcheggio, avanti Natalino. Suda. E Marco Congo, ci sei? Sono in cucina, dai, sto solo ascoltando, ciao. Eia. Come si chiama quello che è morto, che era troppo simpatico, di Alghero, a San Napoli, che ci metteva il coso in cucina, il 140? Quello è il mio carissimo amico fraterno, Pinangelo. Infatti parlo di gente che c'aveva il baracchino in coso, troppo simpatico, mi è dispiaciuto quando è morto, poverino, ma quello mi piaceva perché non gliene affruttiva nulla, c'era da dire che c'era il 440, il 140, che usava 100 watt, non gliene mai fatto, è proprio una persona libera. Lo so, lo so. E quella tutta roba l'ho fatta avere io. E poi gliel'ho fatta vendere. 140 l'aveva preso Daniele Spillo, e il 440 l'avevo ritirato io. E poi è andato a farsi fare in culo con la radio, perché per ben tre volte l'ho messa a posto, la quarta volta l'ho venduta. Ma dimmi una cosa, lui è morto, quando è morto, perché radio gli è rimasta di serie, diciamo, KF? Il 440 l'avevo preso io. Ma dopo che è morto? Sì, sì, l'avevo dato a me, Antonella. Ah, ok. E poi c'aveva un baracchino che lui faceva tutti quegli effetti attaccati al mixer, un Elbex, può essere, una stazione base. L'Elbex ce l'ho io, un veicolare. Ah, veicolare era. Sì, sì, c'ho l'Elbex e il microfono c'era lui. Capito? C'ho tutto io di Pinangelo, quella roba lì sì, 440 purtroppo basta, mi sono stufato, l'ho tenuto per un po' di anni, in quegli anni che l'ho tenuto tre volte, l'ho dovuto mandare a riparare la quarta volta, l'ho fatto riparare e poi l'ho venduto, basta, mi ha stufato, capito, l'ho venduto, se no l'avrei avuto ancora. A tua te. Una volta siamo parati con Cosu, con Luca, Gianni Doppio Rum, da Pinangelo, ci siamo fatta beffa. Ehi, ho fatto di cena a casa di Pinangelo, non so lì, anche con Franco, con Gianni da solo, ma soprattutto andavo con Franco. Con Franco e con Teresa sono andato un paio di volte, abbiamo cenato lì, veniva spesso da me, ma io lo conoscevo una vita perché i miei sono tutti all'Alghero, quindi tutte le volte che andavo all'Alghero andavo da lui, capito? Ma di cosa è morto? Un tumore, insomma, con una forma di tumore un po' particolare. Oh, sapevo. E quell'altro, tu ricordi quell'altro di Alghero che vendeva i ricci, che si fermava a Santa Maria, come si chiamava? Non me lo ricordo il nome, non me lo ricordo. Tu la pari te lo ricordi? Cazzo, sono passati 40 anni, come ti porta a mezz'amici. Di Pinangelo me lo ricordo perché lo conoscevo personalmente. Pinangelo era troppo simpatico, a me è proprio una persona che ha apprezzato tanto, poi quando entrava lui era un trascinatore, una persona che faceva piacere ascoltare. E quell'altro Carlo, te lo ricordate, quell'altro che poi era un radioamatore, Carlo che era un elettrotecnico di Alghero, non mi ricordo come si chiamava di nome nativo. Carlo Lamaria. Carlo? Carlo Lamberda. No, non era Lamberda. No, Carlo Lamberda. tecnico elettricista era Carlo Lavarda, che è morto. Carlo Lappardera invece è sempre vivo, che era radioamatore. Carlo Lappardera, così? Carlo Lappardera, la pietraia vuol dire. Di quello sto parlando, quello non è morto perché l'ho sentito l'anno scorso, l'estate scorsa, dopo tanti anni. Quello lì è tecnico lo stesso ed è radioamatore pure. Allora, Carlo Lappardera è... come può essere un Fabrizio nostro, che le piace l'elettronica, fa e no, non c'ha nessuna attività, non so cosa cazzo faccia. Mentre Carlo Lavarda, che è morto, era CB, era elettricista elettrotecnico, ok? Come Vittorio Giove, per farci capire. No, quello non l'ho sentito, non l'ho conosciuto. Poi c'era un altro che è morto lo stesso, di Alghero, Cavallino, te lo ricordi? Sì, Cavallino, Angelo Plifo, ne sono morti tanti. Poi devo sempre andare a visitarlo, che me l'ha detto tante volte, Angelino, te lo ricordi Angelino, che abita vicino all'aeroporto, che poi era nato il figlio, mi aveva telefonato tante volte, ha detto vieni a trovarmi, non mi ricordo il nome attivo, vabbè, solo il nome Angelino, c'ho sempre il numero di telefono. Sì, Angelino, già lo so, so che abita, c'è tutto. Ha fatto l'entrata a Leone, Burredo, Escideo, Mazzone, Antenna, Talici, Punto, Balle e non è più entrato. Va bene, è nato il bambino, infatti mi ha detto quando faccio il coso, poi disturbava la televisione, si era avuto spostare. Stamattina ho visto Danilo, è rientrato in Viale Porto Torres. No, solamente lì. Infatti sono detto, te lo faccio fare, qua e sono di nuovo qua, perché lui era a Bredaniel, forse sta meglio in Viale Porto Torres, almeno non se ne fa giro mazzo. Mai fatti. Beh, signori, io vi saluto. Dai, non mi sono mai trattenuto così, però visto c'è entrato tu, roba, c'è Natalino, un bel cuocio. Mi sono trattenuto. Baci e abbracci a tutti, anche a quelli che sono in ascolto. Buonanotte e ci sentiamo domani. Io le mie prove l'ho fatto, non l'ho mai provato 9:20 il 27. Ho voluto vedere un pochino come andava, quindi va bene anche il 27 con la radio, non avevo dubbi, però la number one rimane questa, bella, ordinata e pulita. Ciao a tutti, QR Tango. Ciao, anche io chiudo adesso, dai, saluto di nuovo a tutti, ciao Claudio, Natalino, Carlo, Marco, Antonio e tutti in ascolto, SWL, ciao a tutti, QR Tango. Ciao, Robè, anche a te. Ciao, sentiamo. Ho parlato lì, si è cresciuto molto di prestazioni, anche se siamo vicini. Prima era un po' più giù, adesso si è molto alto il segnale. Adesso sto usando l'altro, non sto usando il K, no? No, già si nota la differenza, già. Prima Roberto GTD non ce la facevi a passarlo, adesso l'hai passato, capito? Vuol dire che è incrementato molto, non so io come ti arrivo a te, ma sicuramente una fucilata. Io ho il grido, io adesso sto usando quella là, è masso di coso, però diciamo così, questo è quello là, l'altro, stavo usando l'altro poco fa, adesso sto usando il K. Ho capito, sì, 9:50 Radio 5. E sono basta, ma senti la propagazione, vai, non la buona. È un bel casino, con questa antenna già la sento già la gente. Adesso se la vedi ti fa benissimo. Già passo, sono un po' che non ci passo più, perché tra lavoro e cose, già passo e la guardo. Adesso c'è fuori dal tetto, ce l'hai WhatsApp che ti mando la, come si chiama, la fotografia. Ecco, come no. Aspetta che vediamo un po'. Anche quella del cavo ti ho mandato. Di com'era? Perché anche in queste condizioni questo cavo? La capiglia 2 era anche la, anzi c'è la calza che è pulita perché l'ho pulita io, se no la neva anche quella, ce l'ho dovuto buttare quel cavo. Non si può recuperare, non si poteva. No, resto nero era. Ui. Asciugate, ora entrava anche qua il PL. Ehi, il PL quando me l'ho tolto, me ne è uscita la ghiera, era verde, ne è uscita la sbavatura e ne è uscita la ghiera dal PL addirittura. Era verde il PL. Proprio conduzione quasi niente. Ui. Per carità. Visto lei come ha reso l'antenna? Eh sì. È un vero peccato, Tu hai provato a smucciarlo più giù. Cioè non penso che sia che era tutto, perché entrare lì è un casino, è difficile. Come? Ho detto che non era tutto. Tu hai provato a smontare, a farlo più giù a vedere. Ehi, tutto nero era. È entrata l'acqua. E che mia sfortuna. Ce l'ho dovuto buttare, già ce l'avevo il capo nuovo, tutto vulcanizzato, tutto, anche nell'antenna mi tutta vulcanizzata, e dentro dove c'è l'attacco per raggiungere il cavo, anche lì tutto vulcanizzato, tutto adubato. Sono tre le antenne, hai visto? Oh, scendo tanto il microfono, sì. Sì, che sto scendo. Certo. Sto scendo bene. Yes, sir. Ho comprato quell'interruttore, te l'ho messo. Speriamo che non vi faccia il difetto. Se sto scendo bene, facciamo questo. Ehi, sì che sto scendo bene. Chi non si fa la rovuma fa vedere, ne ha tanto. Rosso, bianda vergia. A me mi fanno male tutte e due le cosce, mamma mia, ma immagini qui tu, una giusta ruccia. Peccato non si può recuperare quell'antenna, a pezzi. Poi, fine menina. No, ma manco i dubbi di scia. Oh, se sai com'era quell'antenna. Dovevo fare la fotografia così ti rendevi conto. Ma cosa l'hai buttata, Natalia? Ma chi ne farà da pizzi? Ah, non hai recuperato niente praticamente. No. Ui. Viva lo bravo, tutto bene, non era. Cazzo, guarda. Sì, va più il piello, verde era. Per carità, veramente è un peccato con l'antenna. Comunque, adesso già c'hai con la nuova fidini. E infatti, adesso già esce dal cesso, non è più alta come la, non è più bassa come era prima, questa già è alta. Era funzione di dato bandi. E infatti, fatto bandi chi vira. Prima stava funzionando male, però, cioè stava funzionando al 50%, non so, capite? Sì, però ha retto. Quanti anni ce l'avrebbe? Chi era retto? Ho detto che ha retto bene per tutti quegli anni che ce l'aveva. Quanti anni ce l'avevi sul tetto? La metà sai. Minimo un pezzo di carne. Ma te lo ricordi quanti anni è la storia? Basta lì, io stavo lavorando quando abbiamo montato quell'antenna. Sono 4 anni in pensione, ha ragione Antonio. Figurati. 5 anni c'è sul tetto, Buone vuole. Sì, 5 anni buoni c'è sul tetto. C'era sul tetto, sì, alla grande. E tu pensa, ho dovuto eliminare quello grosso, il tubo. Se no sarebbe stata ancora più alta, perché veniva male a metterlo, capito? E allora ho lasciato quello da 4 metri. Già lo so, è così. Ora. Non sta andando? sta andando il microfono? Sì che va. Ho visto un leggero cambiamento. Ma non è che spinga chissà quanto. Ascolta, e così invece spinge di più? Il barioglio. Ah, allora già ci siamo, già ci è. Allora già va bene. No, avevo spostato l'interruttore. No, già va bene, già. Vabbè, avevo spostato l'interruttore, dai. Allora già va bene, lasciamo stare così. Dai raga, che mi ritiro tutto qui, devo farmi queste due salvature così. Mi bigio tutto e vado a vedermi un po' di TV. Ok, ci sentiamo domani. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ci sentiamo. Gappa, gappa, ciao, ciao. Marcolino, non ci sei? Ora parlo io più, la buonanotte, ciao, ciao. Ciao, ciao, me la chiudo anch'io, va, ciao.